Lettere a Radio 24, a cura del direttore, con la collaborazione di Luca Cremonese. Il Papa tuona, stigmatizzando la pedofilia nell'ambito della Chiesa, e tuttavia dimentica di considerare che se il fenomeno esiste ed è più ampio di quanto tutti sospettassimo, è proprio per l'intransigenza del papato nei confronti del celibato degli ecclesiastici. È nozione ormai scientificamente acquisita che una normale attività sessuale contribuisca all'equilibrio psichico dell'individuo. E, con buona parte di chi pensa diversamente, un individuo risulta completo quando è formato dall'unione delle sue due metà, maschile e femminile. Costringere a far vivere persone in modo contrario alle leggi della natura spesso comporta conseguenze nefaste per il loro equilibrio psichico, fino ad arrivare agli abusi che ora vengono segnalati, ma che sono sempre stati presenti in ogni epoca. Limitarsi a segnalare singoli casi è sciocco e non risolve un bel niente. Naturalmente ci sono casi anche al di fuori della Chiesa, e sono molti, come molte sono le deviazioni sessuali, favorite al giorno d'oggi dall'enorme pubblicità fatta dai mezzi di informazione. È spesso la curiosità del provare qualcosa di nuovo che spinge giovani e individui psichicamente meno preparati a deviare dalla normalità. Ma è l'imposizione di una regola completamente fuori da ogni legge della natura che ne provoca fatalmente la violazione. Nel migliore dei casi, l'ecclesiastico ignorerà la regola dell'impossibile castità, procurandosi la compagnia di una persona di sesso diverso, e vivrà la sua vita felice e contento, in equilibrio con se stesso e il prossimo, consapevole che il suo peccato è in realtà obbedienza a madre natura, cioè a Dio. Oppure si sconfinerà nelle deviazioni, nell'omosessualità o, cosa peggiore di tutte, nella pedofilia, reato quanto mai abominevole, privo di qualsiasi giustificazione, in quanto si approfitta di esserini indifesi che si affidano alla protezione dell'adulto. Non c'è dubbio che prima o poi, ma i tempi sono ormai maturi, la Chiesa recederà da questa regola assurda, come già dal dopoguerra ad oggi ha fatto marcia indietro su molte cose che prima non erano accettate. È proprio questo che ai miei occhi rende in genere il cristianesimo superiore alle fedi islamica e all'ebraismo, religioni che non tengono in nessun conto l'evoluzione delle conoscenze umane, per restare legate a schemi che già nel Medioevo risultavano superati. Così anche la regola del celibato per i preti dovrà fatalmente cadere anche nella Chiesa cattolica. Dopotutto, se è Dio che ha creato la vita, dotando l'uomo di impulsi irrefrenabili per riprodurla, il peccato lo si commette disobbedendo alle volontà del Signore. Alberto, provincia di Vicenza. Caro Alberto, lei ha perfettamente ragione nel giudicare la pedofilia un reato abominevole, ed è tanto più grave quando viene commesso da persone come i sacerdoti o gli educatori, che dovrebbero avere una grande attenzione e un altrettanto grande rispetto verso i minori che sono loro affidati. Ma non è un reato che è prerogativa dei sacerdoti. Ci sono molti casi di gente comune, talvolta insospettabile e regolarmente sposata, giustamente perseguita per questo reato. Basti ricordare la pur controversa vicenda dell'asilo di Rignano Flaminio. Sulla sua proposta, abolire il celibato dei preti, la Chiesa si è già espressa in più occasioni. Pur ribadendo che il celibato non è un dogma, comunque è una regola che fa parte della tradizione ed è considerata ancora indispensabile per la dignità della missione sacerdotale. Va tenuto conto che se il celibato è un obbligo, non è per nulla obbligatorio diventare sacerdoti. La missione all'interno della Chiesa è e non può che rimanere una scelta libera, responsabile e matura. In questa prospettiva, ogni persona deve agire secondo la propria responsabilità e decidere di abbracciare la missione sacerdotale è una grande responsabilità, tenendo conto che la natura umana non è fatta solo di istinti, ma anche di intelligenza, di razionalità, di capacità di appassionarsi. Questo non esclude, tuttavia, come lei sottolinea, che le regole organizzative della Chiesa, non certo i principi di fede, possano mutare e rispondere ai cambiamenti della storia e del costume. Ho sentito cosa è successo in un ristorante di Roma tra Fuxas e Bertolaso. Anzi, tra Fuxas e un povero signore che cenava con la famiglia e che è stato aggredito dal noto architetto. Prima di tutto, la mia solidarietà a chi ha subito l'aggressione. Adesso arriviamo al fatto increscioso venutosi a creare, che credo abbia la radice nell'aver troppo mitizzato gli architetti archistar, così vengono definiti nel nostro gergo di architetti. Dato che costoro realizzano cose fantasmagoriche, così dice qualcuno, si permettono di tirare per la giacchetta i sindaci che si sono permessi di non concedere loro qualche incarico. Oppure, se ospiti in TV, aggrediscono quelli che osano ricordare loro che avere una vita troppo agiata e fare i rifondaroli, oggi convertiti al PD, stona un pochino. Purtroppo episodi come questi sono normali per chi si sente al di sopra delle regole o che al massimo le regole è abituato a dettarle. I grandi architetti del passato, anche recente, hanno lasciato un ricordo che era leggermente diverso. Gianfranco, architetto. Caro direttore, in questi giorni siamo stati subissati dai numeri. Prima quelli delle votazioni per regioni, province e comuni. Dopo sono arrivati quelli dell'Agenzia delle Entrate relativi alle dichiarazioni 2008, cioè pre-crisi. Il parallelismo tra astensioni alle elezioni e quello dell'elusione del reddito è assolutamente evidente. Vi è qualcuno che non ama mai apparire e quando appare fa in modo di non subirne le conseguenze. Ho sentito parlare di riforma fiscale da fare subito, sulla base del federalismo-regionalismo. Spero che ciò voglia dire che chi guadagna di più paghi anche di più, e non solo che il reddito prodotto in una regione ma distribuito e venduto in altre regioni resti a beneficio della sola regione di provenienza. Inoltre mi auguro che i comuni ritornino ad avere un ruolo nell'accertamento dei redditi. Ho ancora il ricordo di quando vi era la tassa di famiglia per cui le retribuzioni non avevano la trattenuta totale da parte del sostituto di imposta e quindi ritornare a quella forma di fisco avrebbe il suo significato. Ricordo che la mia famiglia aveva una fabbrica di laterizi nella provincia di Imperia e che le visite che subivamo da parte del fisco riguardavano due soli dati aziendali, il consumo di energia elettrica e il consumo di gasolio, registro fiscale di carico-scarico. Ebbene, con questi due dati non sgarravano mai, quindi i nostri bilanci erano veritieri, anche se lo sarebbero stati lo stesso per l'etica di mio nonno. Avremo novità a breve in questa materia? Agostino, un benestante quasi ricco per le statistiche, oppure un fesso? Al PD manca un'idea portante alla quale potersi ancorare per radicarsi nella coscienza degli elettori e avere quella che in gergo pubblicitario si chiama brand awareness. La Lega è il partito del federalismo, il PDL è il partito di Berlusconi, l'IDV è il partito contro Berlusconi, Grillo è il partito del Vaffa e il PD, che partito è? Boh. Quindi trovare la strada maestra è il primo obiettivo da perseguire. Un'idea chiara, concisa e forte che riassuma la mission del partito e la reason why per gli elettori che li devono votare. Stiamo parlando quindi di banale pubblicità, perché gli elettori, alla fin fine, sono consumatori. Obama ha vinto sulla scorta di una semplice asserzione, change. Veltroni ha tentato di scimmiottarlo copiandogli lo slogan «si può fare». Si può fare cosa? Obama diceva «yes, we can», riferendosi appunto al cambiamento. Veltroni non si sa a cosa pensasse perché in realtà non aveva la più pallida idea di cosa fare. La destra è dogma, la sinistra è dubbio e discussione. Visto da destra, Dio, patria, famiglia. E poi le tasse cattive, la regola del mercato, eccetera. Visto da sinistra, Dio non si sa se esiste o meno. Siamo cittadini del mondo. Di famiglie ce ne sono tanti tipi, conviventi, madri single, coppie gay, genitori separati, eccetera. Le tasse servono per garantire servizi, occorre decidere quali e come. Il mercato deve essere regolato dalle istituzioni, altrimenti... eccetera. Si vede bene che è più facile portare avanti certe istanze già confezionate, anche se non sono vere, piuttosto che far capire determinati argomenti. Infatti la sinistra era forte quando diceva «siamo tutti uguali», anche se, vero, non era. Tutto questo ovviamente è una mia opinione. Gaetano, Reggio Emilia. Le dichiarazioni post-voto dei dirigenti del PD sono penose e imbarazzanti. Non abbiamo né vinto né perso. E neanche pareggiato. È evidente in quel partito la totale mancanza di leadership, ai vertici. Fatti fuori Veltroni e Franceschini, troviamo solo squallidi burocrati privi di carisma, senza anima e cuore, del tutto inadeguati al ruolo di limpida e forte opposizione che dovrebbero, e forse non vogliono, esercitare. Francesco. Chiedo se, dato il calo forte di votanti, non si debba avere un'attenzione più diretta all'andamento del numero dei votanti per ogni partito. per verificare se effettivamente si possa parlare di vittorie, anziché di minori perdite. Per esempio, la Lega ha ottenuto più voti rispetto al passato o ne ha persi di meno di altri partiti, come PDL e PD. Marco. Il nostro tempo ha rammollito la società, intellettualizzato tutto, si discute su tutto e si lascia fare ai ragazzini ciò che vogliono senza un minimo di corresponsabilità da parte dei genitori, primi responsabili di ciò che fanno i loro figli. La scuola, nata per insegnare e supportare i genitori nell'educazione dei figli, ha perso il suo ruolo principale. Per colpa di chi? I primi sono coloro che fanno le regole. I secondi, quelli che devono far applicare le regole. Poi bisogna incominciare a dare sanzioni esemplari. Silvano. Queste erano alcune delle lettere selezionate tra quelle che ci avete inviato all'indirizzo lettere@radio24.it. Continuate a scriverci.